Una serata che poteva comodamente finire a funghi e fagiani viene abilmente spesa negli studi di Music for Youth, che torna prepotentemente anche in luglio. Torna prepotentemente alla ribalta dopo Lucifero, Caronte, arriva Minosse e torniamo anche noi. Tra l'altro, una bolla si chiama con un nome di uomo, perché? Non lo so. Cioè, secondo me, sei una bolla, quindi sei femmina, sei calda, alti la temperatura, ti chiami Selene. Complimenti, questo era il Vise Favotto. Davanti a me Daniele Terzariol, ma abbiamo degli ospiti che valorizzeranno la nostra serata. Tante tantissime domande da porre a chi finalmente potrà portare un contributo culturale a questa trasmissione governata da... da cervelli piatti, sì, e camere a gas. Rubbia ha già firmato una nostra condanna a morte e ha detto sì, fatelo, per cortesia risolviamo questa pietosa situazione. Sono con noi i ragazzi di Sesto Unplugged, va bene se vi chiamiamo ragazzi, vi sentite offesi? Va benissimo. Ragazzi nello spirito, abbiamo ospite. Anche nel corpo, cioè... Uno non se la passa bene, non dico chi è dei tre, secondo me. È quello che non parlerà, ovviamente. Comunque, terzo anno di fila qui per Sesto Unplugged, ci dicono, stavo parlando con loro giù da basso. Giù da basso nel senso giù, proprio di, sì, dell'amico di Gesù. Esatto, era bassissimo, d'altronde è nato così. Loro vanno molto su Radio 2, cioè a quanto pare Radio 2 ci sta facendo il mazzo. E io dunque di rimpiatto gli ho chiesto, ma allora perché venite qua? Che motivo c'è? Che hype avete? Che non è neanche ventilato. E loro dicono, per fedeltà noi ci siamo. Che in effetti è il terzo anno che vengono a romperci i maroni. Comunque Radio 2, devo dirlo, ha una programmazione che veramente, cioè, hai controcazzi, non c'è niente da fare. Secondo me siamo più bravi noi. Comunque, vabbè, non importa, non avremo mai un ritorno e un feedback da questa cosa, ricordatelo, per cui possiamo continuare a vantarci per conto nostro, ma cediamo la parola a chi di dovere. Il nostro buon Fabio potrebbe presentare la propria associazione di qualcosa di utile per questi minuti di nulla. Qualcosa di utile, cosa... Tanto vi saluto e grazie di averci ospitato anche quest'anno. Come ti ripetevo prima, cioè, per noi è una questione di fedeltà. Voi ci avete creduto in noi in tempi non sospetti. Entusiasmo. Scusa, sto piangendo. Piangi pure. No, a parte gli scherzi. Comunque, noi veniamo sempre volentieri qua con voi, perché comunque ci rappresentate, perché anche in questi anni abbiamo visto che comunque come genere voi comunque siete lo specchio un po' anche di quello che noi facciamo. Siamo lo specchio del paese di Sesto. Sì. Visto che Daniele si è anche offerto di darci una mano a Ferrara. Sì, sai che dobbiamo andare da Bon Iver. Sì, andiamo. Ma non sponsorizziamo le rassegne altrui. Sì, esatto. Vabbè, c'è un concerto della minchia. Un concerto inutile. Esatto. Che noi abbiamo pagato uno sfracello di soldi, vabbè, cioè, non importa. Adesso che mi ricordo. Stupidi noi averlo comprato, e troverete me nel caso, se c'è bisogno, a fare del volantinaggio al posto di far fare chilometri. Se vuoi darmi due pezzi, li do anch'io. Ci sei anche tu. Ma l'importante è che non bisticciate, ce n'è per tutti e due comunque. Sì, figurati. Cioè, non ci rubiamo il pane a vicenda, anche perché è sempre poco di solito. Infatti. Andiamo al crudo. Al succo. Sì. Allora, siamo alla settima edizione del Sesto Unplugged. È un festival che, secondo non solo il nostro parere, ma il parere di tutti, è uno dei festival da non perdere durante l'estate. Soprattutto per la qualità e anche per la location, che comunque per noi è il fiore all'occhiello poi anche di tutto il festival, perché riusciamo comunque a creare dei concerti ad hoc per il cortile abbaziale di Sesto Arreghena. E fa la sua bella figura, perché bisogna dire che comunque questo connubio che c'è tra musica e territorio all'interno del cortile è proprio, penso, una delle cose più spettacolari, sì, che si possano trovare nei dintorni. È una delle scelte che paga di più. Sì, sicuramente, anche perché poi noi ci siamo accorti che non quanto la gente che magari ci conosce, che comunque è dalle nostre parti, ma abbiamo anche un pubblico abbastanza numeroso che arriva da tutta Italia, anche d'Europa, e si trovano comunque in un cortile di un'abbazia ad ascoltare indie rock, insomma, non è una cosa che si trova tutti i giorni. E poi quella che è anche un altro dei grossissimi punti di forza di Sesto, secondo me, è questa idea di far suonare i gruppi in Unplugged. In Unplugged, sì, che poi un Unplugged come lo intendiamo noi, perché alla fin fine non è come lo si vede tante volte in TV con questi strumenti acustici preamplificati. È un Unplugged che viene visto come reinterpretazione, quindi comunque un concerto che non è nella solita formazione da tour, ma viene rivisitato in funzione comunque del luogo, che per noi è diventato veramente la carta d'identità poi del festival. in questa maniera siamo riusciti ad ottenere un genere unico. Infatti tutto il pubblico che viene appunto perché sa che quello che vedrà lì poi non lo vedrà da altre parti. Per noi è un punto di forza. La peculiarità sta anche nel suono, cioè per come viene emesso. Esatto. C'è un'acustica perfetta, sì. Cioè impareggiabile, penso solo da strutture quali le chiese, cioè, al suo interno. Mi ricordo un concerto, ho visto andato a vedere il concerto di Capossela a Venezia in basilica. Lì era amplificato bene, però non ho sentito mai nulla come. Sì, sì, infatti lì nel cortile abbaziale c'è un'acustica che è incredibile. Si riesce a trovare delle sonorità che veramente di raro si trovano. E questo anche richiama fior fiore di artisti ogni anno, perché voglio dire, avete avuto chiunque. L'Italia vi invidia. Sì, da noi siamo riusciti ad avere artisti che al momento non erano, diciamo, di gran successo, erano lì. Sì. Siamo riusciti a prenderli, a farli anche conoscere, perché comunque noi abbiamo notato che gran parte del pubblico viene ma non conosce l'artista, impara a conoscerlo lì. L'anno scorso abbiamo fatto i Repressible, abbiamo avuto una seratona, la maggior parte della gente per certo non li conosceva, alla fine si sono comprati tutti i CD che avevano, e ce ne avevano tanti, avevano avuto 200 CD, si sono fatti fuori tutti in una serata. Mm-hmm. E ne hanno parlato anche nei giornali, i giorni successivi, che comunque veramente un'idea, un'innovazione, e per noi veramente un motivo anche di orgoglio questo. Anche perché sì, una delle peculiarità loro è riuscire a trovare quegli artisti che stanno per fare il salto. Ne abbiamo avuto anche Anthony De Johnson, che comunque era lì ma ancora non era esploso. E siamo riusciti ad averlo, come tanti altri. Anna Calvi l'anno scorso ti ricordi, è la stessa cosa, era quell'artista che stava l'abbiamo fatta e poi è esplosa. Intuito, bravura, fortuna, non lo so. No, penso comunque sia anche una buona fase di studio. Anche se voi non lo dite, ve lo assicuriamo noi. Oggi la gente si vede comunque il programma, ma non lo sa che noi comunque dall'anno scorso, finita la stagione 2011, ci mettiamo subito al lavoro per la stagione 2012. Quindi sono mesi e mesi di lavoro prima di stilare un programma. Xavier Rudd, se posso dirlo, l'impronunciare Xavier Rudd lo avevano l'anno scorso, quest'anno ha fatto un disco che è strepitoso e giustamente arriverà due anni fa. Ti correggono. Mamma mia. Pensa quanto avanti erano. Ma santa che ma pensa quanta anni. Roba abbiamo fatto. Che poi. Capra totale che sei. Vabbè, andiamo nel vivo della rassegna di quest'anno. Sì. Abbiamo citato i nomi l'anno scorso. Cedono il microfono. Ma si passano la palla. Lui si tocca le palle prima di parlare, perché non sa neanche che cosa dire. Non preoccuparti, pensa che stai parlando con dei cavolfiori lessi, cioè me, io ed Alvise. Sì, ma tu puoi dirci quello che vuoi, noi ti crediamo. No. Facciamo non so, come i pesci. Non so se è a caldo o è emozionato nel vedere noi. Caldo. Comunque si sventila con un vinile, ve lo dico qua. Voi di non chi, potete tra l'altro, c'è un disegno di Haring. Perché sta cosa? Mamma cara. È una versione particolare fatta per un Natale. C'è anche Randy MC, però. Ma lasciamo parlare. Sì, sì, per cortesia. Abbiamo citato Anna Calvi le edizioni precedenti, ma entriamo, come si diceva, nel vivo della rassegna di 2012, perché si comincia con Perfume Genius e qualcun altro, e tutti gli altri nomi ce li dirai tu in corso di programmazione. Sì, la prima data è il 10 luglio, Perfume Genius è, diciamo, headliner della serata, l'artista che abbiamo cercato di più e che per il quale ci siamo dovuti anche adattare a uno spostamento del periodo del festival, perché solitamente il festival si svolge alla fine di luglio. Mm-hmm. Pur di prendere Perfume Genius abbiamo dovuto consentire il fatto di andare a fare una data il 10 luglio, perché avevamo visto che andava a partecipare a un festival molto importante in Inghilterra che si chiama Latitude Festival, che si svolge il 12 luglio, quindi abbiamo fatto un'offerta per il 10 luglio che ha accettato, e quindi pur di farlo, ripeto, ci siamo spostati. Con Perfume Genius la stessa sera suona Big Deal. È l'unico gruppo italiano di questa edizione, che sono Eclectic Education. Mm-mm. Poi il 21 luglio abbiamo Soap and Skin e Apparat and Band. Il 27 luglio Beth Jean Sutton e Chris Darnot. Il 28 luglio Olafur Arnalds My Brightest Diamond. E il 29 luglio Fanfarlo e Other Lives. Eh sì, e tu dici che cartellone, mi viene anche su fame, c'è pure da mangiare. Esatto, noi mangiamo sempre ogni anno che andiamo. Giustamente bisogna rimpinguare le casse di questi ragazzi che si spendono. Ma soprattutto fanno il frico, gente, lo fanno anche estremamente bene. Fanno anche bene, mentre io e te facciamo un programma radio non si capisce perché. Esatto, quando potremo fare frico. Potremo fare frico forse o finire nella pentola esatto. E alla fine sarebbe più degna. Tu dici Headline Perfume Genius, infatti noi mettiamo un pezzo dei Big Deal. Bravo. Bravo. Bravo, credo. Non so se era con pietà o con strapotenza che mi ha detto. No, dai. Il pezzo Chair è molto bello, quindi valeva la pena. Valeva la pena metterlo. Music for Youth cede alla musica, cede la parola alla musica. Questi sono i Big Deal con Chair per la prima serata di Sesto Unplugged 2012. You don't trust me to sit on your bed. Put me on a chair in the corner instead. You don't trust me, you don't trust me at all. Only you want me for my lungs. Only you want me for the songs I write about you. About how I like you. You don't trust me to sit on your bed. Put me on a chair in the corner instead. I'm just hoping you slip up, miss a step, stop being sensible, fall into my arms. Don't you wanna have that morning again? Wanna be your lover, trying hard to be your friend. You're so sweet, and you keep me that way. Messing my head, messing my head. You're so sweet, and you keep me that way. Messing my head, messing my head. I know that you've been playing me. Messing my head, messing my head. I know that you've been playing me. Messing my head, messing my head. You don't trust me to sit on your bed. Put me on a chair in the corner instead. Don't you wanna have that morning again? Wanna be a lover, trying hard to be a friend. So sweet, and you keep me that way. Messing my head, messing my head. You're so sweet, and you keep me that way. Messing my head, messing my head. You're so sweet, and you keep me that way. Messing my head, messing my head. You're so sweet, and you keep me that way. Messing my head, messing my head. You don't trust me to sit on your bed. Put me on a chair in the corner instead. Di rientro Music for Youth, questa era Chair dei Big Deal, ospiti della prima serata di Sesto Unplugged che si terrà in data martedì 10 luglio, ossia domani, perché anzi oggi, santa pace, perché sistemare in streaming le puntate e poi mandarle e non ricordarsi quando ne veniamo trasmesse è un dramma. E purtroppo, e pensa che è solo colpa tua, perché io sono stato zitto. Per cui questa sera presentatevi ai cancelli di Sesto e battete con le forche, vi accoglieranno a braccia aperte, ci sarà da mangiare, ma soprattutto ci sarà Perfume Genius, che è l'headliner della serata di martedì 10 luglio, in compagnia dei Big Deal, che abbiamo appena ascoltato con Chair. Continuiamo a parlare di Sesto Unplugged, fa voto, se hai domande utili per la causa, tirale fuori, altrimenti lascia fare a me. No, io ne ho una. Come è andato questo contatto con Apparat? Apparat non è la prima volta che viene in Italia, perché noi almeno l'abbiamo già visto a Rivolta qualche anno fa. E come affronta Apparat un concerto in acustico? È una domanda che mi sono fatto anche io. Sì, Apparat però ha fatto l'ultimo album nel quale si avvale della collaborazione di una vera e propria band. E tra l'altro nell'ultimo album c'è anche un duo d'archi. Per cui pensavamo, anche per noi è un po' un esperimento, è la prima volta che approcciamo questo tipo di ambiente, no, sonoro. Però il fatto che lui abbia appunto lavorato su quest'album in questo modo, secondo noi comunque è perfettamente contestualizzabile. Una volta che si mettono dei paletti a livello di decibel, noi ce lo siamo ascoltato l'album e ha detto: questo album è bello ed è nostro. Oltre a questo, da diversi anni noi stiamo dietro, tra virgolette, a Sopenstein. Nell'album di Apparat c'è un pezzo che si intitola Goodbye, nel quale lui si avvale proprio della collaborazione di Sopenstein alla voce, perché abbiamo detto sarebbe una gran figata riuscire a farli entrambi nella stessa sera, e ci siamo riusciti. Guarda caso, entri io e te, tu mi fai vai a comprare il latte e torno a casa con quattro raspi di uva o con del frattino. No, è stato un parto lungo da elefanti. Però è anche nel caso dei raspi di uva però io sette telefonate, no, comunque, tra l'altro Apparat non aveva in previsione di fare, perché ha fatto alcune date in Europa, poi di sviluppo appunto l'album, ha fatto delle date con la band, però il suo amore resta quello del DJ set. Infatti anche per l'estivo in Europa gira con il DJ set. Abbiamo chiesto la disponibilità per fare comunque una serata con la band, che prevede, oltre a lui c'è uno al pianoforte, la batteria, due archi e la chitarra, quindi una vera e propria band. Però veramente anche i due archi danno un valore aggiunto non indifferente. Abbiamo chiesto la disponibilità a lui a fare questa serata, abbiamo mandato le foto delle location, gli storici eccetera, ovviamente per cercare di accattivarci un po' l'interesse. Ha messo un po' di miele. Esatto. Sì, e poi abbiamo detto che l'intenzione appunto era quella di farlo nella stessa serata di Sopenstein, perché la speranza è quella poi di vederli assieme come ultimo brano della serata, di vederli assieme nel brano Dubai appunto, e lui ha accettato. È difficile pensare ad Apparat in una cornice come quella di Sesto, cioè per me è difficile un po' da astrarre, anche perché spogliare i suoni di Apparat, tralasciando l'ultimo album, insomma non è... L'elettronica c'è. C'è una rivisitazione dei pezzi, però l'elettronica non mancherà, ma è impossibile pensare appunto, come dici tu, ad Apparat senza elettronica. Però abbiamo voluto fare questo tipo di sperimentazione. Sì, Sesto Unplugged è in continua evoluzione, cioè siamo partiti con un'idea e negli anni stiamo considerando anche strade diverse. Però ormai il termine Sesto Unplugged deve intendersi come la continua ricerca di un qualcosa di nuovo anche a livello di proposta al pubblico per quel che riguarda i concerti estivi. Cioè comunque sia, non sono i soliti concerti che si vedono nei campi sportivi o nei palazzetti dello sport. Comunque, se mi è permesso fare un po' di salotto, secondo me Apparat non disdegna, non perché siamo cari amici, ma per quando sono andato a sentirlo a Rivolta, che portava portava in tour il disco che aveva fatto con Ellen Alien, la canzone di chiusura è stata fatta con Apparat alle tastiere, qui pianoforte, e Ellen Alien alla voce. Quindi secondo me non è una cosa che gli dispiace, cioè fa cicin, diciamo, in qualche modo. Può darsi che vi troverete anche un pubblico in parte differente rispetto, ma ci interessava sta cosa, rispetto al solito, perché e attirarlo potrebbe anche essere tutto sommato facile, perché è il nome che porta con sé il pubblico, potrebbero scoprire una nuova esperienza musicale, chissà, magari si affilieranno. Sì, il contesto sarà ovviamente per il pubblico di Apparat assolutamente diverso, cioè da quello che è il pubblico di Apparat di solito va nelle discoteche ad ascoltarlo, sì, oppure nei club. Qua stiamo parlando di un cortile abbaziale, le sedie, i tavolinetti con le candele, cioè l'acustica perfetta, cioè il contesto sì, un po' si contrappone, però sono proprio queste contraddizioni che ci interessano. È proprio l'ambientazione unplugged, sì, quello che resta alla fin fine. Come diceva Mauro prima, noi siamo in continua evoluzione, però l'idea di base comunque resta quella comunque di offrire al pubblico una versione particolare del concerto, quindi un pubblico quasi da club, seduto, si gode il concerto, comunque può capirlo in tutte le sue sfumature, non è in uno spazio ampio dove comunque uno si può perdere, è proprio una questione di artista e pubblico, e quindi è questa la dimensione che noi comunque abbiamo voluto che restasse come punto di riferimento. Poi quello che è la musica stiamo andando avanti, cioè non siamo fermi comunque a un concetto che avevamo 7 anni fa. Abbiamo visto con il tempo che comunque era giusto comunque proseguire, sperimentare, e penso quest'anno con Apparat riusciamo a fare una sperimentazione che forse per la prima volta troviamo l'occasione per farlo. Certa elettronica recente ha derive che si prestano. Adesso esatto. parte una mia invettiva sull'elettronica, però ci sono effettivamente gruppi o produttori singoli, Urdix Naus, Taiko per esempio, che si prestano tantissimo all'unplugged, secondo me. Dopo averli preannunciati con questa facile digressione di Favotto che maneggia l'elettronica come fosse la vanghetta per l'orto, esatto, direi che andiamo ad ascoltarci Apparat. Il problema è che l'elettronica non maneggia lui. In compagnia di Soap and Skin siamo riusciti, pensa che grande somma ha fatto il mio cervello, sì, che di solito quando c'è un pensiero l'altro fa manovra. Sabato 21 luglio Apparat. L'altro compra il latte. Con Soap and Skin, questa è Goodbye dall'ultimo album, The Devil's Walk. Arrivederci di Apparat con Soap Skin, e adesso passiamo al nuovo disco che abbiamo estratto, estratto in una selezione abilmente curata da Daniele Tertariol per parlare di Sesto Unplugged. Ora siamo alla data del 27 luglio. E dopo sapone e pelle, dai laboratoire Garnot arriva Chris. Giustamente, poi capisci perché Radio 2 fa ascolti. Fa ascolti e noi no, cioè, per queste battute di merda. Io non riesco neanche a riascoltarmi certe volte, fai conto te. Se volete, vi prego, salvateci da questo delirio. Dite qualcosa estivo. Di serio su Chris Garnot. No, Chris Garnot è un artista... Innanzitutto noi lavoriamo, iniziamo la programmazione a dicembre-gennaio e ci avvaliamo anche di suggerimenti che ci arrivano, come in questo caso da una nostra affessionados, ci è arrivato questo suggerimento via Facebook. Ma in questo caso noi abbiamo guardato, non ci sono riscontri, perché non è mai venuto in Italia, quindi è impossibile avere dei numeri, dei dati. Non ci sono neanche numeri confortanti a livello di YouTube. o di No, però... ci è piaciuto, perché secondo noi merita, è un bel artista e siamo sicuri che la performance comunque sia di alta qualità, quindi ci fidiamo del bello, come si dice. Loro sono andati ad occhi chiusi come Bocelli, esatto. Hanno acquistato Garnot. No, così. Poi c'è da dire un'altra cosa, che mi collego a Chris Garnot per dire questo, cioè... siamo sovvenzionati anche dall'assessorato al turismo della regione Friuli e dall'assessorato al turismo della regione della provincia di Pordenone, per cui per noi tra i criteri di scelta degli artisti uno dei criteri è quello di avere esclusive territoriali ampie, di avere esclusive anche o addirittura anteprime come in questo caso, perché questo ci permette, nonostante si possano chiamare artisti di nicchia, ci permette comunque di accogliere pubblico e di avere riscontri che vanno al di là dei confini del Triveneto. Noi peschiamo anche per un Chris Garnot, arriva gente dalla Sicilia e dalla Sardegna, non sono tantissimi, però quelli che arrivano comunque poi devono fermarsi, dormire, consumare, e quindi questo è turismo e fai conoscere i luoghi, i territori al di là appunto dei confini e delle località. Ah, perché bisogna anche dire che a parte il festival, sentiamo per chi che, non... che contributi. Sì, sì, ora un momento scelto. Sì. Per chi non conosce Sesto a Regna, è un bellissimo Regna, tra l'altro. Vabbè. è un bellissimo posto per passarci dei giorni. Puoi anche donare tantissime rose alla tua bella, appunto. Sì, sì. Tu che regali crisantemi. Esatto, so. Io li tengo per la corona. La sacra corona unita, visto che si parlava di Sicilia. Perché è stato acceso il microfono? Che continui a perché vuol parlare di Salamella, glielo passa per quello, è da un po' che ci prova. Fa una domanda sulla Salamella. Li facciamo sfogare sulla Salamella. Allora, parliamo di enogastronomia, visto che... Ma che telefonate queste domande? Visto che si è parlato di turismo, eccetera, eccetera. Esatto. Voi proponete anche... anche dei prodotti culinari Salamella. Della zona. Cioè, noi cerchiamo comunque, visto che riusciamo a creare un po' di turismo, di far conoscere Sesto e i suoi dintorni, che comunque è un posto magnifico, perché... è un piccolo paese, un piccolo centro medievale, poi ha una campagna che comunque è molto bella. Cioè, il turista ha la possibilità comunque di visitare dei luoghi che sono, secondo me, quella terra di ispirazione, perché comunque hanno un fascino che difficilmente poi si trova in giro. Anche per gli stessi artisti. Apro e chiudo il cappello. Difatti, guarda, noi quando abbiamo iniziato a pensare al Sesto Unplugged, l'abbiamo pensato perché, allora, ai tempi c'era l'estate musicale, e c'erano artisti che poteva essere dalla musica classica alla musica leggera, però questi quando si dovevano fare il concerto alla fine dicevano sempre che comunque in quel posto lì riuscivano a dare qualcosa in più. Da lì poi c'è partito l'embolo, abbiamo detto ma perché non creiamo qualcosa di partito, perché comunque abbiamo carino, visto che cioè, è un ambiente affascinante. Per di più noi siamo comunque legati alla nostra zona e ci piace anche far conoscere i nostri prodotti, panino con la Salamella, tant'è, panino col frico e ne avete tutte, birra le di Sauris, visto che comunque abbiamo anche questa bella collaborazione con la regione, con la provincia, addirittura la provincia ha creato un ente che si chiama Vibraction, dove cerca di promuovere anche a livello nazionale tutte le manifestazioni musicali della provincia di Pordenone. in quel modo lì riusciamo comunque anche a far conoscere i prodotti del territorio, che comunque sono prodotti di tutto rispetto, perché noi ci siamo accorti che ci sono tanti turisti, arrivano, hanno sentito parlare del frico, ne approfittano per mangiarlo perché non l'hanno mai mangiato, ne hanno sempre sentito parlare, perché comunque la cucina friulana è stata esportata in tutto il mondo, quindi anche il frico è un prodotto che è abbastanza famoso, la gente l'ha sentito nominare ma non l'ha mai mangiato, arriva lì e lo mangia. Quindi, carissimi Noah and the Well, visto che quest'anno altronde preferite il freddo, andate a mangiare sto cafisso, cosa devo dire? Esatto. Cos'è, vi piacciono le renne? Cioè, limonarci? Non ho capito. Mamma mia, veramente, siete pessimi, so che ci ascoltate. Io metto anche i vostri pezzi. Fa anche schifo. L'album era carino, cosa avevamo messo? Life Goes On? Sì. La vita va avanti, ma... Sì, anche senza di voi, carissimi, esatto. La vita va avanti, Sexto Unplugged marcia dritto. E infatti noi andiamoci a ascoltare Chris Garnon con Dirty Night Clowns. Vogliamo aggiungere qualcosa su questo eclettico? Ah, l'unica cosa che possiamo aggiungere è che, appunto, l'ha detto Mauro, è la prima volta che viene in Italia, in esclusiva nazionale, sarà un piano solo dove riproporrà tutti i suoi brani. Ti dirò che di tutti gli artisti, alla fin fine è uno che ha riscosso parecchia curiosità a livello di mass media. Cioè, abbiamo avuto più riviste che comunque hanno richiesto una sua intervista, perché è un personaggio curioso. Quindi siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta. Noi non chiediamo l'intervista, andiamo solo a farci delle foto per poi vantarci con delle ragazzine. Sì, consuete sbarbine emo, per cui ce la possiamo tirare. Ce la potremo fare assolutamente. Intanto questa è Dirty Night Clowns di Chris Garnon, che andrà per la serata del venerdì 27 luglio in compagnia di Beth Jeans Auton. Down. I'm sorry, boys, about the dirty night clowns. Earth does break the things that we make, like model planes and cupcakes. I can clear the leaves from here. They're too far under the brush this year. Da da da da da da. Tuonate. Sì, senti, ci sono dei tuoni in sottofondo. E saranno le mie ascelle? Il video a supporto ricomincia anche, ma noi andiamo in fade out. Di Chris Garneau, che sarà il terzo ospite per la serata di venerdì 27 luglio a Sexto Unplugged, in compagnia della ragazza del cantante di Red Hot Chili Peppers, giusto? E non lo portano. E non lo tiene in valigia, non lo fa vedere, se lo tiene per sé. Santilario! Che cazzo fai? Lo ammanetti a letto? Non ho capito, metticelo in piazza. Parliamo di cose un po' più serie. Qual è la richiesta più astrusa che vi è arrivata da parte di un artista? Se avete frutta, verdura, cose strane, io mi ricordo. Ma no, quest'anno a livello di richieste di catering, tu intendi quello? Sì. No. Però Open Skin è tosta. Oh, parliamo di che si possono queste cose? Sì. Ha voluto vedere le immagini dell'hotel, quindi sapere come era fatto l'hotel, le camere, il ristorante, sì, da brava crucca. Ha voluto vedere tutto. Ma la cosa più interessante è che con una mail aveva scritto che voleva conoscere l'ora in cui tramonta il sole il 21 luglio a Sesto Regena, perché non inizierà il concerto fin tanto che non ci sarà il favore delle tenebre. E c'è un motivo, cos'è, un sangue blu aristocratica, una lucertola. Di giorno riposa, di notte si sveglia e addenta le persone. Chi è? Andreotti? È morto, tra l'altro. No, sto caldo, non può schiattare anche lui. Basta le derive politiche. No. Non andiamo a tirare su casini. Che passiamo alla serata del 28 luglio. Sabato 28 luglio, di Sesto, c'è un po' un gioiello islandese. Fa freddo. Si porta dietro una bella tormenta di neve. Speriamo ci faccia il piacere di portare, non dico brutto tempo, almeno un po' di fresco. Sì. Olafur Arnalds. Sì. Da 2 anni si inseguiva e siamo contenti perché è musica d'autore e qualità altissima. E viene, come si dice, abbinato al nostro Ludovico Einaudi. Però secondo me anche sonorità e melodie anche più originali e particolari. Siamo contenti, insomma. Forse è quello che meglio si cala alla realtà di Sesto Unplugged, secondo me. Poi se ho detto una vaccata mi state trafiggendo con gli occhi. No, però ad esempio la stessa sera abbiamo My Brightest Diamond, che suona prima, tra l'altro. Però ad esempio questo è un altro modo di lavorare nei concerti di Sesto Unplugged. E cioè, noi avevamo visto che My Brightest aveva creato l'ultimo album avvalendosi della collaborazione della E-Music Ensemble, che è un ensemble di strumenti classici, che tra l'altro aveva collaborato anche con Anthony De Johnson. Per questo album aveva svolto un concerto al Lincoln Center di New York. Quello che abbiamo richiesto noi è: perché non vieni da New York con un volo speciale New York Sesto Regena? Noi ti preleviamo, ti portiamo a Sesto, ti mettiamo a disposizione un sestetto che, avvalendosi ovviamente di spartiti che ci fai pervenire prima, si studia le parti e proponiamo al nostro pubblico quello stesso concerto. Vista le foto delle location, lo storico e tutto, accettato, e quindi è andata anche per questo concerto. Che fatica, era un po' quello che avevate fatto anche con Baby Drum Boy. Baby Drum Boy anche con i Charlatans. La differenza è che questa è andata oltre, perché innanzitutto non è più un trio d'archi, ma qui c'è flauto, tromba, clarinetto, viola, violino e violoncello, e non è più una parentesi del concerto, ma è tutto il concerto. Tra l'altro c'è una specifica da fare, perché non facciamo cadere il nostro pubblico in errore. Quando dite che c'è un artista che apre l'altro, non è che quello prima suona per meno tempo. No, My Brightest fa il suo concerto e Olafur fa il suo concerto. Faccio l'esempio: Sopenstein ha comunicato che inizierà il concerto appunto con il buio, però per 90 minuti, quindi è il concerto di Sopenstein. Breve cambio palco, concerto di Apparat, ma sono 2 concerti in una serata. So che ci tenete che questa cosa venga specificata, perché molti pensano magari un'esibizione corta, visto certo. che i supporter di solito occupano meno della metà del tempo dell'esibizione dell'headline. Quindi. Sì, sono tutti doppi concerti. Andiamo ad ascoltarci Olafur. Favotto, lo vuoi presentare? Se no faccio sempre tutto io. Va bene, sì, no, perché non vorrei mai logorarti. Deliri e onnipotenza, poi. Nearlight, Olafur Arnolds e sempre Daniele Terzariolo, il Vise Favotto, Music for Youth, in compagnia di Sexton Plus. Eccoci, Olafur Arnolds, Near Light. Si sentono le voci in sottofondo dei nostri ospiti che non ce la fanno più, stanno veramente chiedendo pietà e tutto sommato anche noi, ma io e te ci beccheremo per tutta la seconda parte di Music for Youth, almeno pensa abbiamo... che culo, mamma santa, vabbè, non importa, sai, sono cose che vanno fatte, se non le fa qualcuno, cioè noi. Invece, se cosa va in onda, scariche statiche? Beh, che tante volte sono preferibili, voglio dire. Forse tutto sommato sì. Signori, è il momento di fare la gente seria, prima di presentare l'ultimo pezzo, perché vorrei ricapitolare insieme a voi tutto il calendario della vostra rassegna, i contatti, quanto serve per le prevendite e il resto che volete dire, tutto, vendo tutto. Allora, beh, per qualsiasi informazione basta andare sul sito www.sextonplugged.it, lì si trova tutte le informazioni per il festival. Le prevendite comunque le trovate su Viva Ticket. Quest'anno abbiamo deciso di fare anche due forme di abbonamento, una generale per tutte le serate e un mini abbonamento per le serate del 27 e 28. Quindi chi vuole comunque ha la possibilità di scegliere, e abbiamo appunto creato queste possibilità. Se vogliamo riassumere le date, allora domani 10 luglio abbiamo Perfume Genius, Big Deal. Oh, oggi va bene, tranquillo. Pensa che chi ci ascolta in podcast potrebbe essere anche ieri. Ma infatti ho capito subito di aver sbagliato. Poi vabbè, il 21 luglio abbiamo Apparat più Sopian Skin, 27 Bad Jeans, Acton e Chris Garnot, il 28 Olafur Arnalds e My Brightest Diamond, e il 29 Fanfarlo e Other Lives. Infatti chiudiamo con la doppietta Fanfarlo e Other Lives, con Other Lives che si diceva sono il gruppo preferito di Tom York. Eh sì, e il gruppo supporto di tutto il tour Stati Uniti e Canada. E a supporto del gran collettivo Fanfarlo, perché non sono neanche pochi. In quanti si presentano? In 6? Beh, tutto sommato bene, pensavo potesse andare peggio. Esatto. Fanfarlo, una delle cose più belle secondo me che il panorama mondiale ci offre. Sono anche amici di Sigur Rós, non lo so, sì, chiamiamoli così. Sigur Rós. Si conoscono, si vogliono bene. Sì. Giocano anche a bowling il mercoledì assieme. Voi non lo sapete, ve lo dico io. Ah, in esclusiva nazionale, perché come voi cerco di. E anche in quanto esperto di bowling. Orco Giuda. Signori, io intanto vi ringrazio. No, grazie a voi, veramente. E sapete che non vi frutta assolutamente nulla questa cosa, ma è tutto interesse nostro. Perché finalmente abbiamo qualcuno di studiato nella nostra trasmissione. Era ora. No, speriamo di darvi una mano nel nostro piccolo. No, comunque noi veniamo con piacere da voi, perché comunque abbiamo anche un rapporto di amicizia dopo tanti anni. E sapete che se vi rifiutate, noi non ci offendiamo. E continueremo a capire la scelta. No, ma comunque se vedi, comunque sono passati 3 anni e ci facciamo tutta questa strada per venire a trovarvi, quindi lo facciamo volentieri. Guarda, Ermanno è già sulla porta. Cioè, ma perché a caldo? No. Spera nella corrente d'aria. Non ma ci no. Sopporta più. Ermanno ha la classica faccia dell'husky in estate. Orecchie basse e una lettiera di acqua per te. Noi presentiamo i Fanfarlo con Shiny Things. Io e Favotto restiamo qua. Ringraziamo per l'ennesima volta. Grazie a voi di nuovo. Mauro, Fabio, Ermando, buon ritorno a Sesto, ci vediamo lì, ci vedremo un po' tutti. Ci vediamo lì questa sera. Questa sera, tra l'altro. Non serviva, lo specificavo. Fanfarlo con Shiny Things dal loro ultimo album. Not worry about images. Let's not worry about mind control. Let's stop talking about prisoners. Against an invisible wall. Let's not feel anything at all. Keep it inside your chest all night. Let's not worry about going extinct. We'll be preserved on a shelf. We'll be right back. Siamo tornati in studio a quanto pare. Cioè, purtroppo le sfighe non finiscono mai. E per cui torniamo anche noi. E cosa ci vuoi fare? La seconda parte di Music for Youth, briglie sciolte, cavalli slegati, giustamente. Sciolgo le trecce, i cavalli danzano. Finalmente possiamo dire quel cazzo che vogliamo. Le tue gambe arroganti si intrecciano. Ecco, comincia Favotto. Ciao Al, come stai? Ciao, bene Lele, grazie. Cioè, che tu? Scusate, che è anche un'occasione per me e lui per rivedersi dopo circa un mese. In realtà, in effetti, non ci vediamo da un po', sappiatelo. Bon, te dov'è che eri? In Scozia? Io ero in Scozia. Sì, io sono sempre rimasto dove hai ben presente, e non stiamo parlando di casa tua con tua madre. Anche se mia madre è dispiaciuta di questa cosa, in realtà. Anche la mia è dispiaciuta perché non ti ha visto, e d'altronde noi ce le scambiamo come... Il pane e i pesci. E come avviene sempre più di frequente in noti alberghi del Noventano, che è casa tua. Cosa è successo? Ma che casino. Ma come si può? Dove eravate? In un noto hotel di Rovetta di Piave, vi dico il nome, no, vabbè, chiamate Giovanni Cagnassi, la Nuova Venezia, Scagnozzi sul pezzo. Giovanni Cagnassi, abbreviato in GK. E visto che si citano ben tre lettere, un saluto al Sitch. Esatto. Ciao Sitch, questa è per te, questa puntata è per te, e noi ti dedicheremo il prossimo pezzo, perché... Adesso è la seconda parte del programma, nella quale, non lo so, è un misto mare tra nuove proposte, beneamati ascolti nostri e vecchi cazzi e proposte insulse che arrivano da Favotto. Quindi a proposte insulse si risponde con altrettante cazzate, e io infatti vi propongo Loredana Bertè. Loredana Bertelli, in realtà, che fa compagnia a Gualtiero, quello, esatto. Lì, vabbè. No, in realtà è Jap Androids, famoso ascolto di Loredana Bertè. Lei ha tratto ispirazione da loro. Peccato che loro sono usciti nel 2006, mamma mia. 2006. Si dice così. E come al solito andiamo a sbattere in Canada, perché loro sono canadesi. Perché noi abbiamo questa predilezione per i canadesi? Non lo so. Forse per dare a te adito alle tue battute. No, non dirò niente sulle tende, ma dirò piuttosto un qualcosa che può essere forse interessante. Sì, dimmi. Allora, i Jap Androids registrano per Polyvinyl Records. Che? Polyvinyl Records. Che cosa rappresenta? Che è una piccolissima etichetta che però ha una serie di cose assolutamente altisonante. Tipo? Quali? Ad esempio, gli Xiu Xiu. Ad esempio. E Sony and the Sunset. Tu te ne hai fatta una di sti qua, di questo ultimo gruppo, giusto? La Xiu mi ero fatta. Sì. Mentre l'altra Xiu guardava con te. Una voyeur. Soprattutto gli Off Montreal. Ah beh. Comunque gli Xiu Xiu erano recentemente in un noto albergo di 90 di Piave. Anche loro. E praticamente si concedevano negli spazi pubblici. Questo lo dice GK. Negli spazi pubblici si concedevano. Esatto. Immagino copiette, visite. Copiette come queste e poi pulisco io. No, e non si pulisce da solo, per cui si devi pulire tu. Senti Noel Gallagher in sottofondo, un pezzo che non metteremo mai perché non rientra nella nostra programmazione. E soprattutto perché dopo che Noel Gallagher ci ha dato dei peli di pube, noi siamo finiti in dei problemi. Era Pazzani quello. Ma io sempre a fare confusione tra gli amici, poi si risentono. Vabbè, vuoi che ci ascoltiamo i Japandroids o andiamo avanti a sparare cazzate in sequela? Ascoltiamoci i Japandroids, che loro sono usciti con il primo album che si chiama Post Nothing. E adesso hanno partorito questa cosa qui, della quale non so neanche il titolo, se non che quella del il titolo del singolo, che è The House That Heaven Built. Ora non chiedetemi quale tipo di casa sia, che metratura è, se è col parquet o meno, se ci paghi il limo sopra. Allora parliamo di quest'IMU. Perché vi lamentate del limo? Fine la tassa sulla casa ce l'aveva tolta il precedente governo, non stiamo pagando niente di nuovo. La casa è sempre quella. In tutta Europa lo pagano, la casa è sempre quella. Perché lamentarsi? Noi vi lamentate di cazzate, secondo me. Anche a te, Favotto. Esatto. Poi tira su Pompeiane fuori misura, passa i cabi sopra casa tua con l'elicottero, dicono che là le forascaia. Causa piantata, giustamente. Tegole che cadono sulla vostra testa. Tegel. Di cattivi pagatori. Tegel, come dicono quelli all'aeroporto di Berlino. O che anche fanno... Tekel. Come diceva Carroll, che agli europei è un figurino. Carroll Wojtyła, attacco della Polonia. Il famoso Carroll funebre quando è morto. Basta. È vero, si sente che sono andati via quelli di Sex Unplugged, per cui l'abbiamo buttata in vacca. È caduta subito. Japandroids, The House That Heaven Built, è tornata Music for Youth, ma morirà altrettanto. Per come Carroll. Jeff Androids, The House That Heaven Built, Terzariolo e Favotto con voi in questa lussureggiante serata dominata dalla bolla Minosse, e andiamo avanti con un solo cuore come le piccole vendette lombarde ai bei tempi, adesso che si sono fottuti anche la Lega, era ora. Signore, vabbè. Sì. Noi andiamo a sentire il prossimo pezzo. Chi è il prossimo pezzo? Ah, non lo so io. Gli Oh Children. Ovvero? Oh Children. E a corso. Okay. Fermi sui pedofili, esatto, che stanno entrando in radio. Calmi, state mentre calmi. C'era gente con i capelli lunghi e la barba che diceva: lasciate che i pargoli vengano a me. Sì. Oh putei, venite qua. Sì. Oh Children, gruppo che ha delle atmosfere wave notevolissime, ma è appena uscito. Parlaci di questi occhi, che io non so assolutamente niente. Quartetto dalla terra di Albione, capitanati da un cestista di colore, non sto scherzando, afroamericano di altezza 2,03 m. Gioca a tennis e di cognome fa Zonga. Esatto. Ma che figo è Zonga! E comunque grandissimo Federer, non arriverai mai su quelle palle, schifoso di un Murray, non ti sopporto. Federer che, come tutti sanno, si contrappone al Lenzuolerer e al Copriletter. Se vogliamo stendere un Federer pietoso. Esatto. Grande. Che Wimbledon. Io ero collassato sul divano ieri, per cui non mi è che restato che guardare questi ma che stop volley che ha fatto. Tu dovevi vedere Favotto. L'ho vista tutta, anche vista, perché Murray è scozzese e quindi si è smossa pure la regina, per Murray. Murray però, bisogna dire, adesso spezziamo una lancia a favore di Murray, ha fatto tanto, ma ovviamente ci si inchina di fronte alla classe. Però un buon risultato secondo me per Murray, adesso facendo così cos'era dal 38 che un inglese non arrivava in finale. Esatto, e è bello che ci sia arrivato qualcuno che alla fine ha avuto così tanti problemi fisici nella vita, e non mi riferisco ai tuoi problemi di erezione o ai miei problemi di gotta. Non è che dovevano essere detti così in radio, però vabbè, ormai non... Beh, ho la gotta, vabbè. Io ho problemi lì. Diciamo che quelli che producono il Chais si fanno le settimane bianche con me. O quelle di bianca, bonus. A seconda dei loro vizi, a seconda delle loro necessità. Anche delle loro virtù. Comunque, gli Oh Children hanno appena licenziato un loro debutto che sa molto di Joy Division e New Order, che è un tanto pure un terreno caro a noi di Music for Youth, a questo punto andiamo a sentirci questo, che non è assolutamente un singolo, né già estratto né che verrà estratto. Si chiama The Realest Piace Solo a Me. Ah, ok, io ti stavo chiedendo allora perché l'hai preso. Tra l'altro lo trovate in YouTube e non potete neanche commentare sotto e premere mi piace. Perché sta censura medievale? Perché sono della gente di merda. Veramente. Poi ti chiami Oh Children. Tra l'altro il nome viene preso da una canzone Nick Cave. Questa è l'unica cosa colta che riuscirò a dire nei prossimi 10 minuti. Siccome hai pronunciato Nick Cave, io non procedo con le battute, non dico niente. Sembrava anche una buona chiusura. Cioè, doveva scattare il pezzo dopo Nick Cave. Scusami se ti ho interrotto. No, no, ma... Tired of grieving, tired to see them looking for something, what I believe in. will give us a home. Balance will give us a home. Overachieving, gifted with nothing, weaving, ducking, barely surviving. Silence will give us a home. Balance will give us a home. This ain't the gospel, this is the realest. Liars, cheaters, more unbelievers. Silence will give us a home. Violence will give us a home. Nations are brewing, craving adhesion. Tensions are rising, what are we doing? Silence will give us a home. Violence will give us a home. Children, the realest, siamo rientrati in Music for Youth per una puntata, non so neanche se chiamarla one shot, come vuoi chiamarla? One night stand. Che figata. No. Poi tra me e te. E se ci sono le briciole, lascia, passerà qualcuno a pulire, esatto. Cosa ti devo dire? Adesso passiamo a parlare di un pezzo. Un bel pezzetto, eh? Un bel pezzettone. Che ci mette tutto sommato d'accordo. Sì. Assolutamente sì. Non dico che riassuma tutta Music for Youth però... in tre minuti e rotti, però sì, le direttrici che prende il nostro programma ogni tanto qualcosa raccata. Sì, sì, sì, no, assolutamente. Perché mette assieme Cartville, sì, che è il leader della band, che si è ascoltato singolo, ha anche tutto un altro tipo di sonorità che io e Favotto sentiamo di consigliarvi. Sì. Tra l'altro, beh, Cartville ora solista, prima frontman dei War on Drugs, e noi infatti si va a parlare di War on Drugs. War on Drugs hanno licenziato quest'album nel 2011, Slave Ambient. Prima avevano esordito con un precedente del quale non mi sono tirato giù il nome, perdonami. Ma guarda, vedi un grosso punto di domanda, sì, davanti a te. Loro sono quelli del formaggio, perché si sono formati a Filadelfia. meravigliosa. E sono spalmabili, giustamente, sull'asfalto, se presi sotto da un Ducato di schiena. O anche da un carro mascherato con sopradungo. Pennsylvania, c'è ancora la sedia elettrica in Pennsylvania? Sì, è vero. Non lo so, è uno degli stati che ha la pena di morte. Lo tiene ancora? Sì. Ah sì, tu sei sicuro di questa cosa? Abbastanza sicuro. Giuro che se domani verifico... No, adesso non ricorrere agli stratagemmi di internet per verificare. Mamma mia, io mi auguro che tu ti stia sbagliando, perché così ti... Giuro che partono degli impropri da qua a un minuto e mezzo più avanti, che giuro, guarda, veramente... saranno pesanti. Se non fare finta con lo studiato che sbatte le dita sulla tastiera, oddio, alza la mano, intanto aiutami, non è che posso fare la telecronaca. Di... la pena di morte negli USA. Sì, davvero? Sì. Da un sito che si chiama lapenadimorte.com. Sì. Beh, ragguardevole direi, cioè tutto sommato direi che possiamo tenerlo come riferimento. Parla vicino al microfono, non ti ho imparato niente in 20 anni. Eccola, ecco, c'è anche su Yahoo Answers. Ah beh, lì parlano anche di assorbenti oltre che di pene di morte, non è molto... Eccolo qui. Nella Pennsylvania c'è la pena di morte? Io ricordo che in questo sito ci sono anche domande quali: perché ho la forfora? O perché diciamo, quando mi gratto i capelli con forza poi le dita san di formaggio. Comunque, no, dai, non sto scherzando, l'ho letta l'altro santa giorno. Pace. Comunque, allora, la domanda di Miss Jackie è: nella Pennsylvania c'è la pena di morte? E se essa c'è, quale tipo? Punto di domanda. Ah. A questo punto la migliore risposta viene data da Pandino. Un panduz. Che dice: sì, c'è, si tratta dell'iniezione letale. E qui cosa cita come fonte? www.lapenadimorte.com. Ah, hai usato il famoso sistema della triangolazione che tanti frutti ha regalato in università. Frutti, forse anche verdurine, tutto sommato. Poi le pulisce lui. Sì. Vabbè, facciamo che ti do ragione, però mi tengo la riserva di verificare. Basta, non è che possiamo tirare avanti. C'è un ulteriore commento di tal Deb, che ha un'immagine inguardabile, che dice: una volta sedia elettrica, oggi iniezione letale. Ah, per cui, dai. Sembra confermato. Mi tocca dirti bravo e farti anche l'applauso, come fanno le foche monache. E quindi verrai premiato con l'ascolto dei War on Drugs con Brother, un CD che vi consigliamo. Oltre a riassumere le sonorità di Music for Youth, ascoltatevi Slave Ambient perché merita. Non so neanche come catalogarlo come genere. Però pesca in quello che è la radice del rock americano. Nel senso che se voi andate a sentirvi Bruce Springsteen e un po' anche The Bob Dylan, lo trovate in questi War on Drugs. Ah, facciamo la parentesi: per questioni tempistiche siamo costretti a lasciarci indietro alcune tracce che però ci sarebbe piaciuto presentarvi. Sì. E, prendo spunto a Bob Dylan, perché una delle tracce che volevo presentarvi io è di un menestrello altrettanto bravo, però è svedese, si chiama Tallest Man on Earth, conosciuto di più come Christian Mattsson. Il pezzo era 1904, il nuovo album. Noi andremo a ascoltarcelo a Brescia più o meno a novembre. L'altra traccia che volevo presentarvi io, poi cederò la parola ad Alvise, è quella di una band, si chiamano WLIF, che suona malissimo, ma in realtà è un acronimo e sta per World Unite Lucifer Youth Foundation. Anche molto carino. Il pezzo è Heavy Pop, un altro album che merita per l'anno appena passato. Allora, io invece avrei a tal proposito un finale circolare pascoliano, nel senso che abbandono, partendo dagli Old Children, lascio da parte i Dirty Three. Perché? Beh, Dirty Three, gli sporchi tre, insomma, sono una band che fa acustico e fa solo musica strumentale post rock australiana. Credo, secondo il mio modesto parere, la migliore uscita a oggi del 2012. Fanno dei pezzi con Nick Cave, che dà il nome agli Old Children. L'altra cosa che lascio ai posteri mio malgrado, e ora però tu mi dovrai confermare in diretta se lascio ai posteri mio malgrado dato il minutaggio. Sì, tutto sommato sì, perché sennò non la finiamo più. Grinderman sentiteli. Hai scelto gli altri, che diremo poi. Perché Grinderman è un puntatone di 6 minuti, ascoltatevelo. Grinderman hanno fatto per Anti Records recentemente un brano di un album di soli remix. Remix strafottenti, tipo Joss Home che remixa i Grinderman, o anche Uncle. E tra questi io mi sentirei appunto di Uncle, Hyper Warm Tamer, che è uno dei pezzi più belli di Grinderman dal loro primo album, quello in cui praticamente la scimmia grida. Ecco, lì Uncle ci mette, crea un pezzo con delle venature dark, secondo me stupefacente, ma anche estivo. La nostra lista è stata fatta, ora vi lasciamo ai War on Drugs di Cartville e Soci. Quella che è in arrivo è la prima traccia di apertura dell'album e si chiama Brother. War on Drugs, questo era Brother, l'album Slave Ambient. Siamo in chiusura di Musica for Youth e questa ambiente schiavo, la stessa cosa che si vive in questa stanza in questo momento. Anche un altro tipo di ambiente sotto le nostre ascelle. Esatto. Il Borneo, il Borneo totale. Muschi e licheni. Questa puntata di Music for Youth tra me e te mi ha fatto tornare la voglia di tornare roboantemente la prossima stagione, ma ci sono anche i tuoi problemi di trasferta e tutto il resto, quindi daremo una valutazione. Ma non si può mai sapere, perché le vie del Signore sono infinite. Vai a sapere che cosa succederà. Taci che ti sei fermato da solo. Esatto. Go to know, va a saper. Per cui magari, non so, delle puntate sceme, 10 puntate tutte impacchettate potrebbero saltare fuori. E anche qualcosa di monografico che non tarderemo a farvi sapere. Non guasta mai. Sappiate che, contrariamente a ciò che voi potete pensare, noi l'estate non la passiamo assieme ai maiali e alle ghiande, ma pensiamo alla prossima stagione. Noi siamo gente che praticamente a campionato finito è già lì per tirare su la rosa nuova. Cioè, cosa devi fare? Preventivare il ritiro, presentarti in montagna a Dobbiaco, un po' di riscaldamento, qualche pezzo sulle piastre. Sì, voglio dire, poi ovviamente non avete di fronte la Juve, avete di fronte il Lecce e quindi compreremo gabbiadini. Però e ci terremo Davide Michele, grandissimo, grandissimo esteso di largo, perché io non so, ormai sarà una chiata di Michele, a parte essere una chiavica sarà anche una chiata, cioè. Di Michele, beh, purtroppo no, che mai da gioia il fantacalcio. Esatto. C'è da dire questa cosa, non compratelo. Probabilmente Di Michele passerà l'estate sfondandosi di Polaretti Dolphin. Maledetto, guarda. Spero che gli venga, non coccolone, due, così andiamo sul sicuro e schiatti come piatti. Altro delle... giocatore del Lecce. Offere, quello dei biscotti. Vabbè, possiamo andare in chiusura di programma? Certo. Non possiamo neanche dare i riferimenti online su Facebook. Ci hanno cancellato il gruppo. Signori, ci hanno cancellato il gruppo. Adesso siamo iscritti in due, io e lui. Non abbiamo scritto bestemmie, sia chiaro. Hanno solo rimodernato la piattaforma, fottendoci in pieno 3.000 contatti. Sì, con questo cogliamo l'occasione per un appello serio. A stronzi! Sì, non solo noi, ma anche se ci fossero stati altri gruppi di questa radio, penso a Snowboarding, sì, penso a Overbooking, penso che siamo sempre noi. Siamo sempre noi. Penso al gruppo della radio in generale. Sì. Mettetevi una mano sulla coscienza, sì. Tiratela su dalla patta e mettetevela sulla coscienza. Cercateci per altri canali, noi restiamo disponibili al nostro solito blog nel caso in cui ci siate arrivati per qualche strana motivazione. Disponibili come Sara Tommasi, per farci capire. Ma che schifo di porno che ha fatto, ma non è neanche capace di fare quello. Che porno di bassa lega. Cosa dirà, che è stata drogata adesso? Sicuramente per nascondere la sua totale incapacità anche in quell'ambito. Questa agilità tipica del braccio. Tipo. Cosa gli resta da fare a questa? Non sa fare niente, non sa fare neanche il porno. Che destinazione le dai nella vita? Dove può eccellere? Nel cono di segnalazione, secondo me. Sì. Autostrada del Sole o Salerno-Reggio Calabria. C'è un momento di lavoro in corso, metti Sara Tommasi con le braccia rivolte al cielo in ginocchio. Cioè, per carità, è anche carina e potremmo cominciare una disquisizione sull'estetica e tutto il resto. E però... Wittgenstein. Sì, mamma mia, lui sicuramente ti butta lì una discussione se fosse ancora vivo. No, noi non abbiamo nient'altro da dire, vorremmo perderci in grandissime disquisizioni, ma direi che possiamo tralasciare. Sì, certamente sì. E chiudiamo in bellezza con degli Ex-Eroinomani. Esatto, finalmente, cazzo. Oh, niente, anche questo pezzo ci accomuna molto e ci accomuna noi. Non agli Eroinomani, esatto. Cioè, tra me e te. Esatto. Accomuna me e Terzariol, ma accomuna anche noi agli amici di Sesto. Sì. E questo è il motivo principale per cui teniamo questa canzone di Jesus and Mary Chain. O probabilmente perché è finita così a caso, diciamo. O probabilmente perché le altre erano tutte troppo lunghe. Sì. Ma va a sapere. Comunque, sappiate che i ragazzi di Sesto una volta suonavano assieme in una band e li coverizzavano. Sì. Non so se facevano questa Far Gone and Out, che è un po' un sidewalk. Infatti, ma dimmi, perché questa scelta? Cioè, tu dici, perché abbiamo già messo Apple Skies? Perché abbiamo già messo Just Like Oni? Perché abbiamo già messo, qual era l'altra? Quella sotto la pioggia. Si scende la pioggia sul nostro amore. Non me la ricordo più. Tu parla che io ti recupero il titolo. Di qualcosa. Happy When It Rains. Bravissimo. Così non e devo senza guardare. Gente, credetemi, senza guardare. Alejandro Baldi, senza guardare la piazza sotto il 7. Venere di Milo, senza mani. Incredibile. Vabbè. Pistorius, sì. Piazza tutto. Auguri a Pistorius, l'altro, visto che non ci sentiremo prima delle Olimpiadi. Gli auguriamo il meglio per questa Olimpiade. Corri, corri, corri. Corri, corri, far gone and out, appunto. Far gone and out. E questo, un pensiero corre in effetti a Pistorius, anche lui corre. Musicforyouth.wordpress.com è il blog dal quale scaricare tutte le nostre puntate. Come dicono in tutti i programmi di dubbio gusto, se vi siamo piaciuti, scaricatevi gli arretrati. Come diceva Angela Cavagna, mi raccomando, telefonate. Telefonate, telefonate e telefonate. Telefonate. Fabotto, io ti saluto, è sempre un piacere condurre con te. Anche per me, adesso il caldo avrà ragione di noi e finalmente... Forse anche un Doberman potrebbe avere ragione di noi. Cos'è quella cosa nera e marrone che sta tanto bene al nostro collo? Un Rottweiler. Vabbè, penso che pensavo andasse peggio, perché quella battuta la so in un'altra salsa. Io ho detto... Ha deciso di svincolarla così in radio. Azure, azure. Esatto, l'abbiamo sdoganata questa battuta. A questo punto, Jesus and Mary Chain, Far Gone and Out. Un ringraziamento particolare a Daniele Terzariol davanti a me, ai ragazzi di Sesto. Andate a Sesto, vedetevi i concerti, la cosa migliore che l'estate in quel del Triveneto può offrire.